Arturo.

Jubilo,

veno e figlio durati affanni, affanni e stenti, o giorni di miseria tratti fra ignote, ignote genti, o notti insonni, odori di spettri, angosciosi e triste, dal mio pensier svaniste, dal mio pensier svaniste, assi svaniste. Laura, che io spiro, e Laura che spiro, nella mia patria io riedo, io vivo ancor, ah, sì, io riedo, ah, sì, io riedo, sì, io riedo, vivo ancor. Qui, qui l'orgogliosa madre, non credi, adessi a miei nemici tutti sconosciuto son io. La vita che un prodigio a me servava, del mio prence infelice, io consacro alla causa. Oro me dopo me l'avrò da Malvina, oh, ti s'appressa, no, non mi inganno, non mi inganno, ed essa regga, regga, regga il tuo cuore all'improvviso assalto del piacere. Tutto è compiuto, un momento di tregua e si rinfranchi la scaduta ragion dell'ara al piede, un spettro m'apparve, ai Giorgio e Liena tuttor la minacciosa. Thank you. mio cerco gli è celato. Ivi? Sì. eterno fraterno, aggiungervi bravi. Sei. Risponda al chiede tuo, la vedova di Giorgio Argil, ed ora le dimorrai. Scritto dicesti Odoardo Favella in Edimburgo volò Guglielmo ad ottener d'arcieri drappello atto a condurvi l'ignoto quale vie sospetta gente in festa il prigioniero a me si tratta dicea. E questo foglio? Nel proscritto salva un amico infelice del mio spento consorte. Eccolo! V'appartate! Ria che tutto Thank you. Ascoltalo, il Restissiamo, lo proclamerei con te, lo giuriamo. salva, salva non può, a dir la salva. Altri salva, salva non può, altri salva, salva non può. Oh, Quel queste porte, ai, qui tra le feste giubilo ritrovo la consorte che brada marita l'avo ad altro sposo fri. Or tu stessa giudica quai più di noi soffi. Or tu stessa giudica quai più di noi soffi. Qual più di noi soffri? Dito e dicendo ribidi, tanto pietà vinse, che quasi la memoria dei miei tormenti estinse. Fur d'esse, Giorgio, credilo, spietà di fuori immensi. Giorgio, credilo, fur spietati, fur fuggir, negarlo

Grazie speri dal tremendo Cromwell. Potrei annegarla quando Arturo l'impetra. Ed accettarla Giorgio potria. Ma ascolta, ove pur con miei fidi Saemo n'andassi, più snodar la spada contro i nemici del mio prence tolto mi fora e le dolcezze tolte di lieto sposo fra i domestici illari, oh sì, Malvina, di tua virtù certo son io, ma spina d'amor che puro nacque disvedersi non puote, il mal represso tuo pianto ed il forzato sorriso, come direbbe le tue smanie crudeli, e tu vedresti le mie centuplicarsi, ad insoffribil vita meglio la morte. Immensa gioia per Malvina, e salvo Giorgio ed i suoi fuggir. Pronto alla vela già l'attendi un naviglio che subita partenza gli indice il protettor. Tu puoi seguirlo. Gli occhi ti cadranno dolci stille di pensier, ma chi vive nella come il cielo. A quel ch'io parlo accetto la prego, Giovanna, non mi accetto, non d'amor, e l'ultimo lamento del mio spezzato cor è Oh. soccorso. È tardi. Oh, cielo!